Salva Danaio di Deborah Rosciani. Ascoltatori, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, una buona giornata a tutti quanti. Come sapete bene, forse vi abbiamo anche tediato fin troppo su questo argomento da un paio d'anni. Non facciamo che parlare di tutte le forme in cui la crisi finanziaria sta propagando i suoi effetti. E ancor prima di parlare della crisi economica e finanziaria, avevamo cominciato a parlare nel nostro paese di un altro ambito di crisi, quello dei fondi comuni di investimento. Da oltre due anni, infatti, i risparmiatori italiani stanno disinvestendo in continuazione dai fondi, operando qualcosa come quasi 200 miliardi di riscatti fra il 2007 e il 2008, e nel primo trimestre di quest'anno non è che le cose si siano particolarmente raddrizzate. Ad essere penalizzato è soprattutto il canale bancario, penalizzato per propria precisa scelta, per la verità, perché le banche in questi ultimi tempi hanno preferito fare raccolta collocando presso la propria clientela strumenti di investimento di altro genere, obbligazioni bancarie, obbligazioni strutturate, polizze. Le reti dei promotori finanziari invece stanno presentando risultati nettamente contrapposti. Pensate che dall'inizio dell'anno la raccolta fondi tramite questo canale supera i 400 milioni, per cui è un dato positivo da prendere in considerazione, intorno al quale fare delle riflessioni a fronte appunto di un sistema che è ancora, come vi dicevo, in caduta libera. E allora, partendo da questo dato e da questa situazione, noi oggi abbiamo voluto esplorare il mondo del promotore finanziario, naturalmente come sempre partendo anche da una domanda che rivolgiamo a voi, ai nostri ascoltatori stamattina, per pungolare i vostri interventi. Ritenete di essere stati ben seguiti, ben accompagnati, ben supportati in questa lunga fase di crisi finanziaria che si protrae da diverso tempo dal vostro promotore? Come avete impostato i rapporti in questo periodo, oppure non è cambiato niente? Quale grado di fiducia riponete nel vostro promotore finanziario? Tra l'altro, proprio nel momento in cui si sta aprendo la sfida con il mondo della consulenza finanziaria indipendente. Allora, raccontatecelo all'800240024, oppure scriveteci i vostri messaggi al 349-238-6666. Stamattina tutte le vostre considerazioni le metteremo a confronto con quelle di Elio Conti Nibali, presidente dell'ANASF, l'Associazione dei Promotori Finanziari. Presidente, buongiorno. Buongiorno signora. Grazie di essere tornato a Salva Danaio, così come grazie, ringrazio anche Marco Tofanelli, che invece è il segretario nazionale di Assoreti, che è l'Associazione Nazionale delle Società di Intermediazione Immobiliare delle Banche, che collocano presso il pubblico prodotti finanziari attraverso appunto reti di promotori finanziari. Tofanelli, bentornato anche lei. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io vi ho dato il numero verde, il numero per scriverci i messaggi, naturalmente teneteli a mente, cominciate a prenotare, e adesso, intanto che riflettete sulle domande da fare ai nostri ascoltatori, e ai nostri ascoltatori, ai nostri ospiti, gli ospiti di Salva Danaio di questa mattina, naturalmente andiamo a curiosare anche sulla giornata di borsa. Allora, la giornata è stata piuttosto dall'avvio curiosa, perché ieri il mercato europeo è stato protagonista di un rally molto, molto interessante. Oggi ovviamente sono partite, almeno stamattina, le prese di beneficio, gli indici sono partiti in calo di circa mezzo punto, con l'unica piazza ad andare in controtendenza Londra, che ancora adesso segna un rialzo del 3%, ma Londra deve recuperare la seduta di ieri, perché ieri la City è stata chiusa per il Bank Holiday. E poi ad un certo punto, a metà mattinata, le piazze europee hanno virato, hanno cambiato direzione, si sono tutte riportate di nuovo in territorio positivo, guadagnando fino, anzi, ad oltre mezzo punto percentuale. Adesso stanno rallentando di nuovo, ma mantengono ancora il segno positivo. Parigi più 0,27%, Francoforte più 0,14%, Milano più 0,50%. Una giornata molto interessante per il settore minerario, ma a Piazza Affari, per la verità, si ragiona su altri argomenti. Buoni spunti per tutti i titoli del settore bancario: Popolare di Milano più 3,84%, il Banco Popolare più 3,26%, Unicredit più 2,50, CIR anche oggi più 3,51, il gruppo dopo i conti del primo trimestre diffusi giovedì continua a correre, ieri ha fatto più 14, nel giro di pochi giorni più 25%, tra l'altro questa anche un po' di euforia che torna sul settore editoriale che non si vedeva da un po'. Mondadori più 1,85%, il gruppo ieri ha fatto più 7, stamattina è partito con meno 3, ma insomma c'è tutto questo interesse anche intorno al possibile scenario che potrebbe delinearsi per il divorzio preannunciato fra il premier e la moglie Veronica Lario. Naturalmente tutti i titoli della galassia Mediaset sono in forte movimento questa mattina. Peraltro era partito con un più 7 anche Mediolanum, che poi ha ridimensionato la sua corsa fino ad annullarla completamente. Adesso il titolo è in rialzo di appena lo 0,6%. Ribasso invece di un punto e mezzo per Pirelli. Mediobanca meno 1,33 è nel meno 0,8 e frena leggermente anche Fiat dopo il più 8 di ieri. Adesso c'è un rialzo dello 0,12%. Per la verità, dunque, possiamo così considerare questa seduta come una seduta di consolidamento dei rialzi messi a segno ieri. Tra l'altro, oltre alle attività di Opel in Germania, adesso Sergio Marchionne è ritornato negli Stati Uniti in queste ore, vedremo anche insomma come proseguiranno tutti i suoi contatti internazionali. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile interesse anche per le attività di General Motors in America Latina. Insomma, un Marchionne piglia tutto, ci fa piacere, e anche perché insomma queste notizie hanno rigalvanizzato un po' tutto il mercato in questi giorni. Oggi aspettiamo l'audizione del presidente della Banca Centrale Americana Bernanke al Senato. Il petrolio è ritornato a $54 al barile. Io direi che possiamo lasciare la borsa e andare al tema di oggi. Oggi parliamo del rapporto fra investitori e risparmiatori con il promotore finanziario, anche alla luce della crisi che ha investito un po' tutti noi negli ultimi 2 anni. Sentiamo. In questo difficile momento, caratterizzato da una pesante instabilità delle borse e da una forte delusione da parte dei risparmiatori, è più che mai diffusa l'esigenza di poter contare su misure, ma soprattutto persone, che consentano di superare la fase critica. È proprio questo uno dei fattori che ha consentito ad una particolare categoria, quella dei promotori finanziari, di cogliere opportunità positive dalla crisi in atto. La crescente sfiducia delle famiglie nella redditività dei propri investimenti sembra aver toccato solamente in parte la categoria. In base ai dati diffusi da Assoreti e Assogestione, infatti, la raccolta netta delle reti dei promotori ha resistito, a differenza di molti altri canali, all'urto. Numeri alla mano, nel solo mese di febbraio le reti dei promotori finanziari hanno raccolto circa 370 milioni di euro, mentre il sistema, complessivamente, ha registrato deflussi pari a 2,9 miliardi. E, ampliando l'orizzonte temporale, dall'inizio dell'anno, la situazione non cambia. A fronte di 7,8 miliardi fuoriusciti dal sistema, la raccolta delle reti è pari a circa 560 milioni. Il prodotto di risparmio veicolato dai promotori sembra in sostanza tenere rispetto a quello veicolato dal canale bancario. Quali sono i fattori che hanno fatto la differenza? Innanzitutto, il fatto che i promotori hanno continuato a seguire la strada della centralità del cliente e della pianificazione nel medio-lungo termine. Sembra essere proprio questo, infatti, il fattore premiante, sia in termini di raccolta che di fiducia da parte dei clienti. I promotori hanno continuato a credere, in sostanza, che la trasparenza nei confronti dei risparmiatori sia il principio su cui basare le proprie scelte e il proprio operato. Ma accanto ai fattori positivi, crescono anche le sfide per la categoria. Se da un lato i professionisti già consolidati dovranno fare i conti con la concorrenza dei consulenti finanziari indipendenti, anche se il risparmiatore può tranquillamente decidere di avvalersi dell'aiuto di entrambi, dall'altro gli aspiranti promotori dovranno adattarsi a un nuovo esame di ammissione all'albo, che si sta rivelando un ostacolo duro da superare. Insomma, la carne al fuoco ce n'è parecchia questa mattina, e allora cominciamo subito la nostra chiacchierata, ovviamente come sempre invitandovi a chiamarci all'800240024, a scriverci al 349-238-6666, e ci sono già delle considerazioni che arrivano. Tra l'altro, Walter, lo leggo subito: il mio promotore finanziario sono io, compro e vendo ETF direttamente online sul sito della mia banca, ma mi accontento sicuramente. Walter, sicuramente la sua è, come dire, una considerazione interessante, per carità del cielo. Il tema è anche capire quanto ognuno di noi ha la capacità di poter gestire il proprio risparmio e il proprio denaro in maniera così attiva come fa lei. Non ne abbiamo tutti quanti la capacità, pertanto qualche volta abbiamo bisogno anche di una consulenza che sia la più adeguata, la più opportuna possibile. Allora, Elio Continibali, presidente dell'ANASF, l'Associazione dei Promotori Finanziari. Presidente, quanti siete adesso? Quanti siamo i promotori finanziari, sì, iscritti, certo, all'albo? Iscritti all'albo siamo più di 60.000. Perché mi ha fatto questa precisazione? No, perché quanti siamo potrebbe essere quanti sono gli iscritti all'associazione, quanti, ecco, promotori finanziari e lavorano per società aderenti ad Assoreti. Ci sono vari dati che spesso vengono dati, però i promotori finanziari iscritti all'albo sono... Il più rappresentativo della categoria qual è? Prego? Il più rappresentativo, voglio dire, io credo sì, abbastanza rappresentativo il dato per l'attività, quello che comunica Assoreti, perché in effetti quei 30.000 circa, se non sbaglio, me lo dirò meglio magari il dottor Tofanelli ce lo facciamo, che lavorano per le società associate appunto ad Assoreti, sono sicuramente agenti attivi che svolgono l'attività diciamo in maniera continua, e quindi quello è sicuramente un dato sicuramente No, tra l'altro gliel'ho fatto dire perché avevo trovato anche un'altra indicazione interessante relativa invece alla crescita dei clienti di promotori finanziari negli ultimi 8 anni, dal 2000 al 2008 praticamente sono passati i clienti, ripeto, di promotori finanziari da 3 milioni ad oltre 4 milioni con un incremento di circa il 35%, quindi immaginavo anche che contestualmente fosse cresciuta molto la professione, ma credo che sia stato anche così, anche se abbiamo raccontato nella nostra scheda adesso il processo per, come dire, guadagnarsi la professione è molto complesso, Presidente, è diventato. Ma no, è un processo sicuramente complesso, ma sicuramente attento a tante esigenze. Secondo me, obiettivamente, è attento alle esigenze del risparmiatore. Cioè, è necessario che l'accesso venga confermato in maniera seria e rigorosa. Questo non vuol dire creare intralci a svolgere questa attività, ma verificare sicuramente le capacità per proporsi in maniera seria e corretta per un argomento così delicato qual è quello del risparmio. La crescita dei clienti è una crescita ininterrotta e questo depone sicuramente molto bene. Se crescono il numero dei clienti e se cresce anche il patrimonio che i clienti, i risparmiatori affidano alle reti dei promotori finanziari, questo secondo me è un dato che depone in termini positivi rispetto all'attività che svolgiamo, con tutti i problemi che ci sono, certo, con qualche deficienza sicuramente. Che avremo modo di sviluppare nella trasmissione peraltro, anche perché certo il fai da te è sicuramente una grande tentazione, perché magari qualche commissione ce la fa anche a risparmiare, ma poi il fai da te comporta anche comunque un acquisto diretto magari di molti prodotti direttamente in banca, e anche qua poi di come dire, limiti di questo canale abbiamo scoperti tanti negli ultimi tempi. Adesso Presidente ci racconterà anche cosa sta rappresentando per voi questa crisi finanziaria che stiamo attraversando, perché immagino che sia anche particolarmente complicato convincere la clientela in una fase come questa a mantenere i nervi saldi, però volevo andare anche a Marco Tofanelli, lo ricordo ancora, segretario nazionale di Assoreti, cioè l'associazione che rappresenta le società di intermediazione immobiliare e le banche che collocano prodotti finanziari tramite le reti di promotori finanziari per l'appunto. Volevo partire dal dato che abbiamo dato all'inizio, Tofanelli, come giudica il fatto che il canale promotori abbia tenuto di fronte alla pioggia di disinvestimenti che hanno riguardato la gran parte dei canali di collocamento dei prodotti finanziari, banche in particolare? Ma perché appunto in parte, diciamo, nella vostra scheda era anche indicata la soluzione, no? Cioè, a differenza degli altri canali, il promotore finanziario sostanzialmente centralizza il cliente nell'ambito della sua attività. Al di là della centralizzazione, al di là dell'ottica di investimento di medio e lungo periodo, immaginate anche questo: noi abbiamo condotto ultimamente con l'Eurisco, che è una società, diciamo, di ricerca infatti, indipendente, ce l'ho proprio sotto gli occhi e lì volevo poi arrivare con lei, sì, ecco, però ce lo anticipi, ci siamo. Sì. Sono stati, diciamo, nel momento di crisi, il promotore finanziario risulta, perlomeno dal campione, un campione, diciamo, rappresentativo di 15 milioni di nuclei di famiglie italiane, mentre siamo arrivati ad un minimo da parte, diciamo, del campione di clienti contattati, addirittura pari al 36%. Per quanto riguarda i promotori finanziari, il minimo è stato il 64%, ma per chi anche ha subito perdite contenute, non dico rilevanti, ma contenute, il 77% è stato contattato. Cosa vuol dire questo? Che realmente l'attività, la relazione che lega il cliente al promotore è una relazione molto stretta. E badi che il cliente, al di là delle perdite, in questo periodo, siccome oramai sono anche più maturi, e questi sono altri dati che poi, se vuole, esaminiamo in maniera anche più approfondita, il cliente è più maturo, il cliente adesso non vuole più il prodotto semplice come diceva 3 anni fa, no, datemi prodotti semplici perché ho paura, certo. Adesso no, vuole, no, mi devi controllare gli investimenti, cioè non mi basta il prodotto semplice, non è questo, appunto, è come dire lasciami sempre la 500 perché la BS, l'ESPE, non so cosa sia, non lo voglio, no, il tutto progredisce, si va avanti e allora occorre qualcuno che sappia tenerlo sotto controllo. Dov'è il, come posso dire, l'evoluzione importante che il promotore ha dato e i clienti che sono rimasti anche scottati comunque nei confronti dei promotori poi alla fine hanno manifestato soddisfazione in misura molto forte? Dal fatto che la complessità del servizio svolto nei confronti del cliente non è dato da singoli prodotti, ma dal portafoglio. E questo è quello che conta. Qui non abbiamo un cliente a cui viene proposto un giorno un prodotto, un giorno un altro, per investire un po' di soldi, in maniera che possa essere più o meno rispondente al suo interesse. Io non voglio dire che le banche... Può anche capitare anche questo. Può capitare, però voglio dire, non è questo, no? Ma è proprio la filosofia di base che è diversa. Qui viene offerto un servizio, una gestione di portafoglio, nel senso di cura del portafoglio, cura del risparmio, che porta a far sì che il cliente sappia che c'è sempre il referente, che sappia che c'è sempre qualcuno che segue l'andamento dei suoi investimenti, che controlli ed eserciti il controllo sull'investimento. Allora io dico ormai, il mondo della gestione del risparmio non è più appunto fatto da prodotto semplice o paragonandolo quasi al supermercato, io vado, mi prendo il prodotto, quello che mi interessa. No, attenzione, qua è un prodotto complesso, perché un portafoglio è un prodotto complesso e il prodotto complesso non è un prodotto da supermercato. Le reti non sono dei supermercati, sono dei soggetti che offrono un servizio importante, qualificato, professionale. Perché? Perché gestire un portafoglio nella sua complessità non è facile, ma una volta che questo c'è, il cliente lo dimostra ed ecco che il mondo dei fondi fa parte del portafoglio delle reti, come tale non subisce scossoni, non è una moda, oggi ci sta, domani non va, oggi ti offro il fondo, domani ti offro l'obbligazione. No, è un portafoglio complessivo, questo è il valore aggiunto offerto dalle reti. Insomma, un portafoglio complesso, perché noi come risparmiatori siamo delle, come dire, figure complesse con esigenze molto diversificate e pertanto non possiamo essere trattati banalmente come dei destinatari, sì, di prodotti semplici, perché poi ovviamente anche noi dobbiamo essere in grado e abbiamo piacere quando comprendiamo tutte le caratteristiche del prodotto di investimento che ovviamente ci viene fatto sottoscrivere, però siamo anche qualcosa in più, delle persone che hanno come dire degli obiettivi, dei traguardi anche finanziari naturalmente che devono essere pienamente soddisfatti. Presidente Conti Nibali, volevo tornare a lei se vuole aggiungere qualcosa rispetto a quello che diceva Marco Tofanelli, ma mi incuriosiva anche una sua intervista che ho trovato in una rivista che si chiama Investire, nella parte in cui il collega giornalista le chiede quali sono le principali difficoltà che stanno incontrando oggi i promotori finanziari nel rapporto con il risparmiatore, ovviamente riferendosi alla crisi, e lei dice: la gestione dell'emotività dei clienti spaventati non è assolutamente cosa facile, non per lunghi periodi come quello che stiamo affrontando. È ancora di quest'idea o è passato il peggio? Ma non lo so se è passato il peggio, spero di sì, però non posso dirlo. Dico che sicuramente, però, rientrando su quella domanda, sono assolutamente convinto di quello, cioè il ruolo del promotore finanziario è decisivo nel momento della relazione col cliente. Vede, noi non siamo degli analisti, abbiamo sicuramente e dobbiamo avere delle competenze tecniche, figuriamoci, però siamo di fronte a una persona che è bombardata da notizie, da informazioni, tante informazioni messe assieme non sempre fanno corretta informazione, e si è generato addirittura, più che paura e preoccupazione, in alcuni momenti il panico, e in situazioni del genere è chiaro che è necessario confrontarsi con qualcuno che ne sappia sicuramente più di te, che possa, se possibile, decifrare un po' una serie di situazioni. Ecco, quello che ha detto prima il dottor Tofanelli è molto importante. Questo lavoro l'abbiamo svolto, il numero, la percentuale di contatti, cioè quante volte in questo periodo abbiamo chiamato i clienti, ci siamo sentiti con loro, siamo andati a trovarli, sono venuti nei nostri uffici, questo è molto importante. Questo ci ha consentito di, se possibile, in tutto quello che è accaduto, razionalizzarle una serie di cose, quindi non lasciare il cliente di fronte alla propria emotività a prendere magari decisioni che non sempre potevano essere più opportune. Vede, questo lo vorrei un po' agganciare col discorso del fai da te. È giusto che ognuno decida sui propri investimenti cosa fare, se affidarsi a altri o meno, però ricordo che il fai da te, addirittura il presidente della Consob in una sua relazione di un paio di anni fa l'ha definita una anomalia italiana. E su questo credo che, se l'ha detto il presidente della Consob, forse qualche considerazione c'è da fare. Fortunatamente, comunque, per quanto ci riguarda, i clienti aumentano e non diminuiscono, quindi questa anomalia la teniamo sotto controllo. Tra l'altro, Presidente, adesso su questi concetti ci ritorniamo nella seconda parte di Salvadanaio. Mi sta incuriosendo molto uno strano atteggiamento che stanno assumendo gli ascoltatori che ci seguono da casa su questa trasmissione, perché stanno prenotandosi all'800240024 molti ascoltatori che vogliono in qualche maniera contestare il rapporto con il proprio finanziario. Chi invece è pienamente soddisfatto di questo rapporto ci scrive, quindi non si espone. Adesso non so se sia una casualità, ma vi assicuro che questo è ciò che sta accadendo. Per esempio, vi leggo un paio di messaggi: sinceramente io sono in parte soddisfatto dell'ultimo anno, ci scrive Roberto, di come hanno operato i miei due promotori finanziari. Occorre più dialogo frequente fra promotore e cliente, mi sembra il minimo a prescindere da questa maledetta crisi. A Salvadanaio questa mattina parliamo di promotori finanziari, come ci hanno accompagnato, come ci stanno accompagnando in questa fase di crisi finanziaria che dura da tantissimo tempo, forse durerà anche ancora per parecchio tempo. Sicuramente sull'economia reale gli effetti li stiamo vivendo giorno dopo giorno, anche alla luce delle continue revisioni a ribasso che stanno facendo e presentando i massimi organismi economici internazionali. Detto questo, il tema è capire come c'è stata rivolta la consulenza finanziaria da parte di questo canale negli ultimi tempi, appunto, e tempi difficili per tutti, in cui tutti abbiamo visto erodere gran parte dei rendimenti, dei risparmi che ovviamente avevamo da una parte, e ci siamo spaventati non poco. Tra l'altro, i nostri ospiti di questa mattina, Elio Continibali, presidente dell'ANASF, l'Associazione dei Promotori Finanziari, e Marco Tofanelli, segretario nazionale di Assoreti. Magari ripartendo proprio da Tofanelli, qual è stato secondo lei, anche per la vostra categoria, il momento peggiore in assoluto di questa crisi? Perché in molti siamo d'accordo a dire che sicuramente il fallimento di Lehman Brothers ha rappresentato il punto più basso, più brutto della drammatica crisi finanziaria in corso. Tofanelli, lo è stato anche per voi in quei giorni, telefoni bollenti per i promotori? Allora io le posso dire che sicuramente è stato l'effetto pari dal punto di vista dei corsi di borsa a quello del famoso 11 settembre, sì. Quindi puoi immaginare insomma qual è stato cosa può essere accaduto. Comunque sì, questo è vero, nel senso che c'è stata una grande, in quel momento una grande crisi, però ripeto, il mondo delle reti ha tenuto sostanzialmente, perché l'ottica con cui la relazione si crea è un'ottica di medio-lungo periodo, nell'ambito della quale è possibile immaginare momenti di crisi. Poi devo dire che la crisi è andata sempre più aumentando, ma si è spostata da quella finanziaria ad una crisi reale, che se vogliamo per certi aspetti è anche più preoccupante, perché il pericolo di una forte recessione insomma c'è, ancora non siamo, come diceva il Presidente Continibali, non siamo in grado, nessuno pensa ancora di sapere esattamente cosa accadrà, ma si è spostata da quella finanziaria a quella reale, e quindi la parte di emotività, che è quella che incide moltissimo anche sulla relazione con il denaro investito, ovviamente è stata un po' allentata, per cui la crisi è stata forte. Però dai nostri dati, e sono dati oggettivi, insomma, come prima io vi citavo il dato di una ricerca condotta da Eurisco, cioè queste soddisfazioni emergono da indagini condotte da soggetti che lo fanno professionalmente in via del tutto autonoma. Ecco perché questi numeri e questi dati che dico sono dati che mi rendono molto tranquillo su qualunque possa essere poi in realtà l'evoluzione della crisi. Sì, insomma, voglio dire, sono dati oggettivi. E un altro dato oggettivo è questo: nell'ultimo periodo del 2008 le reti hanno riscontrato un forte passaggio, anzi un po' prima ancora, dal cosiddetto gestito all'amministrato. Sì. Cosa voglio dire? Sono usciti dagli investimenti, sono entrati in liquidità, significa per le reti e per i promotori, sia chiaro, guadagnare molto meno, ma significa anche mostrare una profondissima onestà intellettuale nei confronti dei clienti, permettergli, come sta accadendo adesso che il mercato sta risalendo pian piano, è comunque già risalito, perché chi a un certo punto era liquido all'inizio dell'anno ha avuto grandi soddisfazioni già, tornare sul gestito, e questo ha dimostrato, insomma, e sono dati, sono numeri che noi vediamo, insomma, sono dati oggettivi che sono trasmessi alla Consob, alla Banca d'Italia, insomma, alla stampa, a tutti quanti quelli che sono gli organi che verificano questi dati. Da questo punto di vista è un comportamento veramente, un timing veramente eccezionale. Ecco, infatti, no, tra l'altro una delle conclusioni a cui giunge il vostro sondaggio è proprio che la crisi ha aumentato la consapevolezza del proprio portafoglio, quindi mi sembra. E questo trova il promotore, il cliente del promotore e il promotore, secondo me, in un momento molto importante. Voglio dire, i clienti dei promotori sono sempre stati clienti più esigenti, perché clienti con maggior consapevolezza e maggior conoscenza di quella che è la gestione del proprio denaro. Oggi come oggi, in questa consapevolezza, volenti o nolenti, devono averla un po' tutti, e cominciano ad averla un po' tutti perché sono rimasti un po' tutti scottati. Ecco che un interlocutore come la rete, che è un interlocutore che già è abituato a questo cliente, io credo che sia un momento molto importante per poter dimostrare non solo a quei 4 milioni di famiglie, ma forse anche a quegli altri 4 che ancora non sono clienti, di essere seguiti da chi esatto. In realtà sa rivolgersi ad un cliente esperto, che non chiede più un prodotto semplice, ma vuole invece un controllo sugli investimenti serio. E che sono insomma due cose diverse, che sicuramente possono andare a braccetto, ma sono due cose diverse. Allora io comincio a farvi sentire quello che esprimono i nostri ascoltatori all'800240024. Ribadisco, chi è molto soddisfatto del rapporto ce lo scrive, chi non è soddisfatto invece ci sta telefonando e interviene. Allora, a proposito di come i promotori abbiano condotto per mano o lo stiano ancora facendo i risparmiatori spaventati dalla crisi, vi faccio sentire ovviamente una voce fuori dal coro, che è quella di Santo da Palermo, perché magari da una voce fuori dal coro cerchiamo di indirizzare anche al meglio il rapporto di questa persona con il proprio promotore. Santo, benvenuto a Salva Danaio. Santo? Pronto? Pronto, buongiorno. Santo è in diretta, ci vuole fare la sua domanda? Sì, io volevo chiedere che differenza c'è tra promotore finanziario e consulente finanziario. A me la mia banca anni fa mi affidò a un consulente finanziario. Sì. Cioè consulente finanziario. Mi disse che dovevo rivolgermi sempre a lui, mi consigliava nelle mie scelte e così via, conoscendo il mio modo di vivere e quant'altro. Però devo dire la verità, non mi ha mai chiamato una volta, certo. Non mi ha mai consigliato niente, solo l'11 settembre, quando accade quello che sappiamo tutti, le torri famose, mi telefona io per dire c'è da fare qualcosa. Che devo fare? Io mi sto un po' spaventando, dice lei. Santo, allora le faccio rispondere da Elio Continibali, perché allora il nostro ascoltatore si è rivolto alla banca e quindi chiaramente qui non trovava un promotore, avrebbe anche potuto trovarlo, ma in realtà è come dire una figura un po' diversa quella che la banca gli ha suggerito per gestire il proprio risparmio, che è proprio tipicamente il consulente bancario. Continibali, sì. Voglio dire il signor Santo, l'ascoltatore di Santo suo, Valero, suo vicino di casa peraltro, insomma. Sì, siamo con corregionale, sì. Evidenzia sicuramente una patologia del sistema, un cliente che è lasciato solo, in cui c'è qualcuno che dichiara ci sarà qualcuno che ti seguirà e questo non avviene, addirittura se ho capito bene ha avuto solo un contatto telefonico che risale al 2001, cioè è una persona completamente abbandonata. Allora diciamo che sicuramente il risparmiatore deve esigere invece che ci sia un colloquio continuo, una verifica dei propri investimenti, figuriamoci, e comunque il risparmiatore ha anche la possibilità di trovare delle alternative. Voglio dire, ecco, diamoci anche reciprocamente dei diritti e dei doveri. Il diritto di risparmiatore di essere seguito e il dovere anche di sollecitare questo, eventualmente di prendere delle decisioni. Mi viene anche il dubbio che molto spesso magari per piccoli patrimoni i clienti non sono considerati molto interessati né degni di una telefonata. Dipende sempre da chi sono gli interlocutori, certo, a cui si rivolge. Io parlo sempre per i promotori finanziari, i promotori finanziari sono fatti da tanti professionisti che seguono sicuramente una clientela molto importante, una clientela affluente assolutamente, però esiste anche tantissimi risparmiatori soffitti dai promotori finanziari che sicuramente non sono dei paperoni, ma che hanno ugualmente diritto di avere un rapporto serio con un professionista, e chi non ce lo avesse ha diritto a sua volta a chiedere invece che su questo. Ecco, ma per una persona come Santo, che magari così si interessa ad una questione solo perché casualmente la sente in una trasmissione radiofonica, no? E invece noi abbiamo di fronte a noi un panorama che è molto ricco di offerta consulenziale, addirittura secondo me siamo in difficoltà anche nell'orientamento nei confronti di questa, in una fase come questa, perché poi magari affronteremo anche il tema della consulenza finanziaria indipendente, che è un'altra sfida contro la quale voi vi dovete confrontare in questo momento. Com'è possibile che addirittura una persona non sappia in questo momento, cioè proprio concretamente che tipo di suggerimento possiamo dare al nostro ascoltatore, a Santo di Palermo? No, continuo a dire che il risparmiatore si muove, si alza dalla sedia, voglio dire, o oppure lascia il numero di telefono, qualcuno sicuramente lo chiamerà, ma al di fuori delle battute. E lei ha toccato bene l'argomento, sembra, noi addetti ai lavori su questi argomenti ci siamo, però ci sono milioni di persone che forse ancora continuano ad essere abbastanza distanti. Anche in questo si verifica un po' la simmetria informativa che c'è. Sembra scontata a tutti che il dibattito che c'è oggi sulla consulenza sia un dibattito che deve appassionare tutti, ci stiamo rendendo conto che invece c'è tanto spazio invece per farlo recepire correttamente. Mm-hmm. Poi se vuole io glielo anticipo il tema. Vede, il prodotto finanziario credo che responsabilmente non veda in una concorrenza contro cui combattere la nascita o l'avvento di nuove figure professionali, anzi credo che questo possa sicuramente avvantaggiare nell'insieme tutto il sistema e sicuramente avvantaggiare anche i risparmiatori e se possibile competere sul piano della professionalità. No, peraltro sì, tutti, questo dire. Glielo ribadisco perché in un'altra trasmissione in cui invece abbiamo affrontato solo ed esclusivamente il tema della consulenza finanziaria indipendente, come sta nascendo, come si sta formando, come è possibile anche accedere a questa professione per chi fosse interessato, in realtà abbiamo espresso molto chiaramente anche il fatto che sono due, come dire, teoricamente piani separati che possono viaggiare parallelamente, perché chi compra un prodotto finanziario dal proprio promotore ne può comprare anche 10, poi andare da un consulente indipendente e magari chiedere un parere aggiuntivo rispetto al suo giardinetto di prodotti e chiedergli, insomma, secondo te ho fatto delle scelte coerenti, ovviamente indicazioni che anche il suo promotore gli può dare, ma questo per ribadire che secondo me, almeno poi magari voi mi direte la vostra, non necessariamente devono viaggiare appunto totalmente in conflitto come in apparenza, anche da quello che si legge potrebbe sembrare. Maria da Bolzano, mi perdoni, so che l'ho fatto aspettare tanto, ma adesso siamo tutti suoi. Maria. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ero molto interessata alla domanda di questo signor Santo. Sì. E io mi associo a questo, perché io sono una piccola risparmiatrice, ho investito in banca, cioè mi sono affidato a un consulente bancario. Mm-hmm. Però voleva qualcosa di mi più. Ha lasciato, sì. Cioè, anch'io praticamente non sono stata mai contattata, salvo il momento in cui mi sono recata io in banca a chiedere informazioni, anche in momenti di crisi, così mi aspettavo che magari mi chiamasse certo. Per darmi qualche orientamento o... A parte che io non è che ho investito in maniera abbastanza prudente. Sì, ma questo non toglie il fatto che appunto una maggior sensibilità nei confronti della clientela tutta, a prescindere dal patrimonio che si ha e dal grado di rischio del proprio investimento, una maggiore attenzione non si debba prestare. Maria, ma lei non ha mai avuto la tentazione di cercare un altro canale per investire il suo denaro? Prego? Non ha mai avuto la tentazione di cercare un altro canale per investire il suo denaro? Possibile che mai nessun promotore l'abbia contattata? È per quello che io ho voluto chiamare, proprio per sapere come ci si orienta. Certo, no? Come faccio a scegliere il consulente che fa per me? Finanziario in una città tipo Bolzano. Cioè, da dove parto? Maria, che bella domanda, tra l'altro, le ripeto, perché a noi così sembra sempre che il fenomeno avvenga al contrario, che le reti dei promotori siano così aggressive, che non facciano altro, un po' come il venditore dei venditori. Ne abbiamo forse un'immagine vecchia, Marco Tofanelli, come il venditore porta a porta che ci vuole vendere le polizze a tutti i costi. Qua addirittura scopriamo un mondo contrario, ma dove stiamo andando? Allora, sì, assolutamente. Allora, due cose fondamentalmente, mi rilascio anche alla domanda posta dal signor Salvo. Tanto signora, se vuole, sul sito di Assoreti, assoreti.it trova tutte le banche reti e lì può individuare la banca che più le interessa, verificare i prodotti che hanno in portafoglio e contattare qualche banca di queste che sicuramente è presente nella sua città. Questo dal punto di vista del contatto, se non l'hanno contattata può farlo lei tranquillamente, da lì individua e poi trova l'ufficio sostanzialmente presente nella sua città. Dal punto di vista del canale, in effetti qual è la differenza fondamentale? Facciamo una velocissima, diciamo così, proprio a volo d'uccello velocissimo. La banca ha un rapporto tendenzialmente spersonalizzato con il cliente. Da cosa dipende? Dipende dal fatto che io vado in banca e ci sono i dipendenti bancari addetti, ci mancherebbe altro, ma come tutti sappiamo, per questioni proprio di politiche, diciamo, delle banche, quel dipendente in quell'agenzia dopo 2 mesi in un'altra agenzia, dopo 6 mesi in un'altra agenzia ancora. Quindi ho un rapporto con un'istituzione, non con una persona, e questo mi spersonalizza, lo dice il termine stesso, il rapporto. rapporto personalizzato che viceversa c'è con il promotore, può esserci con il consulente. Dico subito che non sono d'accordo su questa possibilità di farmi, che devo dire, operare da qualcuno e poi dopo andare da un altro medico a chiedere guarda come mi ha operato, no? Cioè decidi prima dove vai e chi ti opera. Qual è però la differenza fondamentale? Io, le reti non hanno problemi di questa concorrenza, questa è una cosa che è molto creata secondo me dalla stampa, nel senso che non c'è nessuna preoccupazione, non c'è nessun pericolo assolutamente, siamo ben contenti, poi in realtà forse ancora non c'è proprio, nel senso che mi sembra chieder troppo anche ad una categoria che è appena nata, ancora molto piccola. Esattamente, molto infatti giovane, c'è anche insomma, questo aspetto da considerare, sì. Poi magari ne riparleremo anche se possono viaggiare a braccetto le due cose più avanti, però magari lo faremo, Tofanelli. Prego, lascio concludere. Importante. Sulla sicurezza, anche questo è un aspetto molto importante. I promotori finanziari devono fare un esame, sono diciamo in qualche modo vigilati non solo dalla banca per conto della quale operano, la quale comunque risponde in solido, ma anche personalmente dalla Consob, che è l'organo di vigilanza che c'è sul mercato. I consulenti ad oggi non solo non hanno una banca, ma non hanno neppure nessuno che li vigili, nel senso che il tutto è demandato ad un organismo che ancora non è nato, che ancora non c'è, e sì, quindi non c'è nessun soggetto che in qualche modo possa rendersi garante di come l'attività opera. Allora io dico, ancora è presto, è una categoria che ancora a me, io sono convinto che aiuterà, sarà quello che vogliamo, però francamente mi sembra un po' prematuro e voler caricare di una responsabilità troppo forte i consulenti. Ecco, l'unica cosa che mi dispiace è se si crea disinformazione, si sta creando un'attesa spasmodica di un qualcosa che probabilmente ancora è molto molto molto giovane. E allora intanto insomma siamo qua per parlarne quando saranno giusti e maturi i tempi, anche dai microfoni di Salva Danaio. Salvatore da Trieste, cosa le è successo? Buongiorno. Buongiorno. Allora, come dire, diciamo che quello che è successo non proprio direttamente a me, ma alla mia fidanzata, ha qualcosa di rocambolesco, nel senso che io sono un correntista Fineco e da anni seguito da una promotrice finanziaria. Sì. La mia fidanzata, convinta da me, ha una diciamo una buona somma da investire, così dico ma no, vieni in Fineco anche tu, questa promotrice finanziaria. Adesso magari non infieriamo perché non li abbiamo con noi, detto questo insomma. No, ecco. Il problema non è infierire, il problema è che io mi sono trovato a scontrarmi in una situazione di totale informazione. Io ho fatto presente che la mia fidanzata non aveva un lavoro a tempo indeterminato, quindi di andare calmo per quanto riguarda un certo tipo di investimento, invece la cosa è andata in una condizione di fondi e ad alto rischio. La situazione è questa, non ho ricevuto io né la mia fidanzata nessun tipo di comunicazione sull'emorragia che si stava creando su questi fondi. Alla fine sono stato io a chiedere degli appuntamenti a questa persona per arginare l'emorragia non indifferente. Morale della favola, la mia fidanzata ha perso quasi 20.000 euro, sono stato io a traslare con degli switch, ovviamente con lei presente, certo, dai fondi a obbligazioni. Lei dice se l'ho dovuto fare io, per quale motivo allora insomma si era attivato questo rapporto con un promotore che avrebbe dovuto continuare anche nel tempo. Salvatore, siccome io sto terminando il mio tempo, la passo subito questa patata abbastanza bollente a Elio Conte Nibali, presidente dell'ANASF, tra l'altro che correttamente all'inizio della trasmissione aveva detto certo, ci sono tanti ambiti di miglioramento, no? Sicuramente uno di questi lo ha sollevato Salvatore, per quello che riguarda la professione. Ecco, insomma, ma quando un promotore sparisce solo perché l'investimento non produce magari dei risultati attesi, perché? Sì, queste sono quelle aree di miglioramento. Noi non pretendiamo di avere il 100% della positività in tutte le nostre aree di attività, probabilmente, io non conosco il fatto chiaramente, sì, esatto, certo, siamo su quello che ci racconta il risparmiatore, qui sicuramente qualcosa è mancato. Colgo l'aspetto positivo, io ho sempre questa tendenza, e Salvatore dice che è stato lui a consigliare la propria fidanzata a investire anche lei, a seguire la strada che lui stava percorrendo, quindi probabilmente diciamo ha fatto una referenza, forse anche perché era abbastanza soddisfatto di quello che era accaduto fino a quel momento, poi qualcosa sembrerebbe che si sia interrotto, però qui è chiaro che ci vuole recuperare anche da parte di quel promotore assente invece un contatto col risparmiatore, tutto là. Del resto, guardi, se qualcuno che ci ascolta, Presidente, fosse del tutto scontento del rapporto con il proprio promotore, io adesso è chiaro che a parte palesi violazioni è inutile chiamarvi e contattarvi e comunque segnalarvi certi casi, perché non è sempre necessario farlo, ma a voi interessa sapere anche quando proprio c'è un palese comportamento? Ma credo che questo sia assolutamente opportuno. In ogni caso la nostra attività, tra gli altri punti positivi che c'ha, è quello che è un'attività perfettamente regolata. E c'è la vigilanza che, quando è il caso, combina le sue sanzioni. E lavoriamo per conto degli intermediari che hanno una responsabilità solidale nei nostri confronti. C'è un'attività regolata nell'interesse dei risparmiatori, e questo è un punto di forza. Se ci sono dei punti negativi, se ci sono delle criticità, se ci sono dei comportamenti anche irregolari, chiamiamoli così, è chiaro che si può, il risparmiatore ha la possibilità, certo, di chiedere qualcosa. Presidente, io purtroppo la devo interrompere, ci sarebbero mille altri aspetti da analizzare questa mattina. Oggi però vi ricordo agli ascoltatori che in edicola con il Sole 24 Ore il 12° e ultimo volume della storia dell'economia mondiale, dal titolo Nuovi equilibri in un mercato globale, le sfide dell'Asia, le tempeste del turbocapitalismo finanziario, ecco una breve pillola. Ricchezza e felicità, i paradossi della crescita di Giorgio Ruffolo. Se gli economisti avessero un sogno, sognerebbero una società dell'abbondanza. Eppure la scienza economica è basata sul concetto di scarsità. Quello degli economisti sarebbe dunque un sogno di autodistruzione. Il loro assunto fondamentale, implicito o esplicito, è che una società ricca è la più vicina all'ideale di una società felice. E che dunque la crescita della ricchezza è una via regia alla felicità. Qualcuno si sente davvero di negarlo? E di affermare che le società della pietra, rozza o levigata che fosse, o quelle pastorali, o quelle del Medioevo, o ancora quelle di 100 anni fa, prive di acqua corrente e di anestesia, e con una vita media inferiore ai 50 anni, fossero più felici delle nostre? Salva Danaio termina qui, non riesco a far salutare gli ospiti di stamattina, Elio Conti Nibali, presidente dell'ANASF, e Marco Tofanelli, segretario nazionale di Assoreti, che torneremo sicuramente ad invitare, perché è necessario tornare ad approfondire alcuni aspetti legati alla professione di promotore finanziario e rapporto di consulenza con i clienti. Salva Danaio torna domani, buona giornata a tutti.